Io chiamo adesso qui sul palcoscenico il professor Ardigò, che abbiamo tanto atteso. Quando noi nella Bibbia leggiamo che Dio era, è e sarà, quel sarà non è soltanto colui che verrà, ma o ercomenos, il veniente continuamente. Io ero qui in angustia, viene, lei è il veniente venuto. Allora adesso lei, come superiore mio, anche di Monsignor Roger, perché è superiore di tutto l'istituto qui di cultura, è un padre, il nostro superiore. Molto pro tempore. Pro tempore? Sì, quindi è contingente. Allora lei ci dica una parola di conforto, ma con contenuti, se può. Grazie. Vedi che mica vielano che sono, mi scuso. Devo chiedere scusa al chairman, ai relatori, a tutti loro, perché ieri non ho trovato un posto sull'aereo da Roma per Verona e quindi ho dovuto fare capo a Bologna. Stamattina mi sono dovuto... Sì, ci arriva, no, il microfono. Sì. Come presidente pro tempore dell'Istituto Trentino di Cultura, ma anche come sociologo, vorrei esprimere grande interesse. Spero che chi verrà dopo di me continui questo impegno. Tutti e due. Grazie. Perché secondo me il tipo di incontro che è stato così efficacemente promosso dal nostro istituto più significativamente aperto sul futuro da questo punto di vista, il dottor Capraro ha fatto proprio una linea che è sempre presente in Monsignor Roger, che in qualche modo trascende profezia. Mi sembra che questo sia lo spirito. Noi abbiamo nel nostro istituto anche il più grosso centro italiano di intelligenza artificiale e di robotica di secondo livello, per non dire degli altri sei, però è importante che riusciamo ad avere sempre un momento che in qualche modo ci consenta di collegare scienza e profezia, perché altrimenti rischiamo di essere un poco schiacciati nella differenziazione scientifica fortissima. Ora, per quelle poche considerazioni che io posso fare su questo tema, con il suggestivo per il quale mi auguro che la ricerca possa continuare, e vorrei dire che, con la scusa di non essere presente, sono stato presente ieri, di non essere presente se non tutta la mattinata, vorrei dire che secondo me c'è un punto che deve essere colto, che è quello che mi sembra emerso nella relazione del collega Bianchi e di altri. Non è certo che ci sia un futuro, nel senso non solo dell'escatologia, ma anche un futuro nel senso in qualche modo dell'evoluzionismo, della dialettica. Questo è il punto più drammatico della condizione presente. In fin dei conti, quando subito dopo la caduta del muro di Berlino, il politologo nippo americano Fukuyama ha detto che era finita la storia, noi poi ci troviamo poi a confrontarci anche con l'empirismo delle nostre realtà, come la realtà di questo sistema italiano, abbiamo la percezione che ci può essere il rischio che vi sia una fine della storia, che quindi praticamente il futuro come dimensione fondamentale della dinamica storica possa essere compromesso, cioè questo eterno presente largamente condizionato dal consumismo e dagli stili di vita che non pongono problemi al di là del presente. E questo è un punto per me centrale, per cui se noi manteniamo vecchi schemi, per quanto importanti, che sono appunto quelli evoluzionistici o dialettici, o anche stessi schemi di una sicurezza dell'escatologia, nel senso, per così dire, che in qualche modo ci dà certezza perché le cose possono ancora cambiare in senso migliore. Questo non è sicuro, perché ricordiamoci l'ammonimento del Vangelo: troverò la fede su questa terra a mio ritorno. Ecco, noi siamo in questo tempo, sia per la teologia che per la sociologia, e devo dire che da questo punto di vista io sono convinto che il pericolo per la sociologia, e mi dispiace non aver sentito i tanti colleghi illustri, in partire dall'amico professor Donati, Brugalassi, ma il pericolo per la sociologia oggi è di descrivere l'appiattimento continuamente evolventesi nella dimensione esistenziale e sociale della vita e assumerlo questo come se fosse in qualche modo un dato da assumere per scontato. Io credo che vi siano esigenze di cominciare a porre dei problemi di discontinuità e, diciamo così, di distanza nei confronti dell'analisi empirica della realtà sociale che il sociologo raccoglie. Perché non è vero che ci sia una sorta di evoluzione per cui, in fin dei conti, ieri la gente pensava in un modo, oggi la pensa in un altro. In realtà la sociologia può rischiare, se non riesce a fare uno sforzo anche questo di interrogativo, di essere praticamente una sorta di legittimazione inconsapevole di un presente in degrado. E questo credo che sia importante, per cui io non porrei mai nessun limite allo sviluppo della sociografia, cioè all'uso dei mezzi empirici per approfondimento di cose però in questo momento direi qualunque sforzo metodologicamente raffinato in chiave sociografica deve essere bilanciato da una percezione di ciò che costituisce in qualche modo il decadere della prospettiva in qualche modo sia valoriale sia in qualche misura di umanizzazione. Ci può essere una sorta di necessità di interrogarci sul senso complessivo di questo andare, non accettando che ogni andare sia, per così dire, da assumere come la dimensione nella quale in fondo non c'è altro che modo per il sociologo che constatare le tendenze. Ma credo che anche la teologia, con minori piccoli che per la sociologia, si trovi oggi cimentata in questo tipo di ambivalenza necessaria. Perché da una parte la teologia, per quanto sia un po' poco cultore, mi dispiace, è tendenzialmente portata a fare scienza dei libri sacri, delle rivelazioni, dei contenuti formalizzati. E in questo senso a usare le capacità cognitive razionali e le categorie concettuali secondo una logica che in qualche modo attinge alla filosofia come fondamento e alla scienza anche, per così dire, comprese certi aspetti che per l'emeneutica sono richiesti da verso il lavoro anche storiografico e sociologico. Ma anche qui, se io mi pongo l'ambito della teologia in questo tempo in cui ci può essere il problema della fine della storia senza una dimensione ultra, è evidente che io mi trovo ad avere in qualche modo a svolgere una qualche azione che corrisponde in certo qual senso al rischio della sociografia, cioè quella di non cogliere il distacco da una dimensione esperienziale o da una dimensione anche riflessione che in fin dei conti vede da una parte l'esplosione degli integralismi e dall'altra parte il dissolversi di quelli che sono stati sempre le premesse, diciamo così, esistenziali della teologia. Ora, io credo che sotto questo profilo, perciò, non parlerei di sociologia e di teologia, ma parlerei di queste dimensioni ambivalenti che sono da comporre, da compresenza, sia nell'uno che nell'altro caso. Io penso, per esempio, che la teologia, proprio in questo tempo, mi permetto questa incursione che non è mia propria, deve poter in qualche modo recuperare, come in altro modo la sociologia, anche la dimensione della scienza mistica. Secondo me, è vero, questo non può contrapporsi ad una teologia che è fondamentalmente scienza cognitiva, ma per cercare di cogliere la dimensione di discontinuità e di distanza che noi dobbiamo assumere, onde evitare di essere in qualche modo degli omologatori to cure delle tendenze di degrado che poi speriamo poi non siano così inesorabili e senza futuro. Ecco, da questo punto di vista mi ha molto colpito sempre, nella mia esperienza anche personale, questo fatto che è stata fatta la più grande scienza, per quello che posso capire, nel secolo d'oro nella Spagna, attraverso la scienza del cammino mistico, che è un processo altissimamente razionale. In fondo San Giovanni della Croce è un aspetto fondamentalmente scientifico del suo cammino, ma nel contempo c'è messo il rifiuto di un razionalismo che in qualche misura non consente di poter comprendere se non le basi, per così dire, iniziali. Ecco perché, permettetemi un richiamo personale ad un giovane pensatore, che è la Edith Stein, Suor Teresa Benedetta della Croce, che ha deciso nell'ultima parte della sua vita, prima di essere sacrificata poi nel campo di sterminio di Auschwitz, che sentiva l'avvicinarsi della tragedia, e di Stein si è messa a studiare San Giovanni della Croce e a fare uno sforzo teologico, mistico, sul famoso libro La Scientia Crucis. Ora, in questo modo, noi riusciamo a capire che c'è una componente della teologia che in qualche modo deve fare i conti con la notte oscura, per così pochissima dimensione mistica, che però è sempre presente nella storia del pensiero religioso di qualunque tipo. Evidentemente, secondo me, la notte oscura o passiva dell'anima è stranamente il punto d'arrivo della teologia, ma è anche il punto d'arrivo, il punto, diciamo così, di non ritorno per una teologia come scienza puramente cognitiva. Quando c'è un passo di questo famoso meraviglioso libro che è La Scienza Crucis della Edith Stein, in cui è detto, a proposito di questo rapporto con la notte oscura, l'unica cosa è lasciare la loro anima libera, sgravata e franca da ogni nozione conoscitiva e da ogni pensiero, non curandosi di ciò che avranno da pensare o da meditare, contentandosi di un'attenzione amorosa e sopita in Dio. Ora, questo tipo di punto d'arrivo, che non può essere considerato come ovviamente tutta la teologia, ma che comunque oggi dobbiamo cercare di farlo sentire con forza, come ieri si poteva far sentire con forza la teologia connessa alla politica, questo tipo di bilanciamento, di ambivalenza che deve essere posto per la sociologia e anche per la teologia, a mio avviso credo che debba portarci a pensare che la platitudine, la piattezza, il modo di poterci in qualche modo accontentare di ciò che può essere percepito cognitivamente come mero esistente, non è il modo nel cui può essere fatta conoscenza, per così dire, su basi razionali. Ecco quindi che vorrei dire poche cose per concludere, però secondo me il tema che oggi vi siete posti dovrà avere delle risposte diverse da quelle che sono nati alcuni amici miei, anche io ho partecipato nel 1991 a Bologna, mi ricordo che c'erano Burgalassi, Donati, c'era Capraro, c'erano altri, che riguardava il tema immagini della religiosità. Anche allora si pose il problema del rapporto tra sociologia e teologia. E allora ci fu contro qualche tentazione, sia diciamo così spiritualistica della teologia e sia positivistica della sociologia, ci fu la spinta, la considerazione di considerare come queste due discipline dovevano potersi integrare. Le scienze sociali erano viste, la sociologia in particolare, erano viste come momento di incontro, di cammino, di collaborazione, specialmente a partire dal piano pastorale. Ora, io non nego che l'incontro fra teologia e sociologia abbia da trovare il suo spazio più qualificante dal punto di vista più direttamente legato all'impegno anche operativo nella pastorale, ma dico che forse in questo momento anche i limiti, la crisi della pastorale si connettono a questo fatto, cioè che in un certo senso l'incontro sulla pastorale fra sociologia e teologia può rischiare di essere un incontro tra la sociografia e la teologia come scienza meramente cognitiva. Questo tipo di incontro non credo che sia, se consideriamo il quadro complessivo che possa essere considerato un beneficio, perché non c'è dubbio che la sociografia che si incontra con una teologia accentuatamente cognitivistico-filosofica, in senso cioè che non accoglie anche questo paradosso del fare scienza anche della notte oscura, se non c'è questo tipo di confronto, è difficile che noi possiamo pensare che questo incontro possa essere veramente efficace. È vero che c'è il tema dei segni dei tempi, è vero che c'è in un certo qual senso il particolare compito che spetta al mondo, diciamo così, la sua complessità delle vite religiose, di non essere puramente soggettivistico, non essere puramente istituzionale, ma di cogliere questo elemento della discontinuità che si collega al dato oggettivo e non soltanto al dato puramente soggettivo. Però io credo che sia pericoloso accentuare l'elemento della, per così dire, della collaborazione soltanto accentuando i poli più bassi, diciamo così, di questa sorta di potenziale dialogicità e bilanciamento, se vuoi, più ambivalenza, che dovrebbe entrare sia nella sociologia che nella teologia. In fondo posso dire che le scienze sociali oggi stanno cominciando a riconoscere il debito che devono alla fenomenologia, a partire da Husserl fino ad arrivare a Merleau-Ponty, e questo è un dato importante, perché ciò significa l'interesse che ha cominciato ad avere di nuovo attraverso le stampe dei lavori di sociologia, di filosofia, sociologia, Merleau-Ponty, visibile e invisibile. Ci dice che si avverte anche in chiave, per così dire, di rilettura, di rivisitazione di un patrimonio culturale particolarmente esterno ad un discorso propriamente religioso, quell'esigenza di usare delle categorie che non siano puramente sociografiche. Non a caso si ritorna a vedere con Merleau-Ponty l'importanza del chiasma fra le due dimensioni della vita, fra corpo e mente, fra zone d'ombra, di non visibilità, di trascendenza e zone di fenomenologia oggettiva e così via. Credo che un qualche sforzo, per così dire, analogico, lo potremmo anche cercare di cogliere probabilmente nella teologia. In fondo, dalla linea, diciamo così, dell'impegno scatologico di Metz, che è chiaramente rivolto ad un impegno storico che sembra proporsi come obiettivo forte per i tempi presenti, noi oggi ci troviamo probabilmente a dover dire che non è possibile uscire dalla fine della storia, da questa omologazione al presentismo consumistico, attraverso una grande scatologia di, per così dire, messianico storico-politico, che probabilmente c'è da guadagnare in qualche modo una dimensione che ha a che fare più che con le componenti dell'antropologia, con le componenti, appunto, come si diceva, della dimensione umana. Ecco perché penso, mi avviso, che sotto questo profilo, e veramente concludo, vorrei dire che secondo me c'è un discorso da fare, e voglio riferirmi, per concludere, un discorso, diciamo così, di questi bilanciamenti, di queste connessioni che non siano nella più linea del più semplice, del più ovvio. E in fondo, non a caso, quello che per me è sempre stato un punto, diciamo così, molto sconvolgente, una volta che torno a rileggerlo, nella fine del libro di Edith Stein sull'empatia, c'è Edith Stein ha detto: non ci può essere conoscenza se non attraverso la corporeità, e che quindi la dinamica relazionale sociale ha bisogno di essere corporeizzata, cioè e questo è anche l'importanza del rilievo di Merleau-Ponty. Ora, c'è un certo punto finale di questo bel libro della Edith Stein sull'empatia, in cui la Stein, che allora era ancora atea, si interroga su questo problema. E che diciamo noi di questo mistero, che vi sono persone spirituali che ritengono di avere avuto svolte radicali nella propria personalità attraverso la presenza di una persona invisibile, come appunto il Cristo, come appunto può essere il Daimon di Socrate, questa dimensione, diciamo così, relazionale, che non passa per la corporeità. ha significato per un futuro discorso che possa essere appunto quello centrale della fenomenologia, che fin dei conti vede l'epoché, ma vede anche un'interconnessione corporea come fondamento. Ebbene, io per concludere, secondo me esistono problemi, non a caso nel mondo puramente empirico, puramente positivistico, puramente banalizzante, si va alla ricerca del virtuale. Queste cose banalissime, per cui anche l'erotica deve cercare dei virtuali, che sono un disastro, che sono una svuotaggine, però vuol dire che c'è in qualche modo questa dimensione, che da questo stato di situazioni nelle quali noi potremmo rischiare di non avere coglimenti alcuni del dinamismo di una umanità che riesce a ridarsi senso e prospettiva, il discorso del collegamento fra sociologia e teologia deve perciò trovare anche il modo di complicarsi per questo spirito che in un certo quel senso è della non autosufficienza di nessun conoscere, ma anche nella rilevanza di ciascuno dei conoscimenti. Grazie. Un grazie sentitissimo. Doveva il professore introdurre la mattinata, direi quasi la conclusa, ecco. Con queste aperture diremmo futuriste, almeno per noi teologi, a me piacerebbe molto che si facessero dei convegni proprio su tematiche di questo tipo, la mistica. Sulla politica è facile, ha detto lei, sulla mistica. Io faccio degli incontri con psicanalisti di tipo lacaniano e vedo che è facile con la psicologia. Abbiamo fatto insieme meditazioni su San Giovanni della Croce. Ma la mia domanda è, i sociologi possono fare di questo tipo di incontri? A meno che non facciamo sul libro di Stein, la empatia. Cioè, vedo ancora difficile di poter fare questo discorso su aspetti della mistica, di una trascendenza di questo tipo, ultra e supra razionale, nei confronti con i sociologi, quali più che l'uomo come psicologia studiano le relazioni, i rapporti sociali. Magari lei ci aiutasse a trovare delle tematiche sociologiche sulle quali poter verificare questo incontro tra teologia e sociologia su questa dimensione. Posso dare una sola informazione, sì. Poi mi metto a sedere in mezzo al pubblico. C'è un ambito della riflessione empirica sociologica, che è la sociologia sanitaria, la sociologia della cura delle malattie, in cui praticamente avanza con forza questa dimensione in cui l'empatia entra come schema concettuale empirico. Perché in qualche misura non ci può essere nessun intervento terapeutico se non si accompagni al coglimento reciproco empatico. E questo sforzo è talmente rilevante che è avvenuto non in paesi di antica cultura cristiana, seppure nel campo sociologico, è avvenuto in California, è avvenuto nella riflessione più chiaramente priva, diciamo così, pure attraverso il passaggio degli etnometodologi, partono da esperienze puramente empiriche nel campo specifico della cura della malattia fisica, e lì approda una grossissima spinta verso questa mistica, appunto, perché il tema dell'empatia implica in qualche modo la premessa di un discorso che in fondo la corporeità, come diceva appunto la Stein, non è soltanto la corporeità fisica, il corpo, ma è anche il corpo vivente, e il corpo vivente implica una dimensione che in un certo qual senso passa attraverso l'epoca in certi limiti. Però c'è già un settore molto importante che ha richiamato l'insegnamento fenomenologico proprio su un terreno così empirico come la sociologia nel campo della terapia. Grazie, ci ha dato qualche input. Allora adesso allora